Roma Trastevere, 1 novembre 1966. Care Eleuterio, la casa che mi vide felice in gonnellina corta, oggi mi vede triste in minigonna. Il nostro scambio di idee di ieri ha lasciato in me una sensazione di infinita malinconia. Sensazione che pensavo di provare soltanto dopo ogni puntata di Scala Reale. E penso anche a quanto sei stupido, Eleuterio. Se attacchi briga per una tazzina di caffè, sempre tua. Roma, Parioli, 3 novembre 1966. Cara sempre mia, la casa che ti vide bambina in gonnellina corta e che oggi ti vede in minigonna conosce perfettamente il tuo mini cervello, per cui non si stupirà. Certo, sono uno stupido a litigare per una tazzina di caffè, ma vedi, il caffè bollente gettato su una canottiera di filo contenente un torso nudo fa malissimo. Te lo garantisco io che sono il proprietario di quel torso nudo. Ciao. Ho scritto. Ho letto di quei due scienziati che sono riusciti a fotografare lo Yeti non so più su quale montagna. La notizia deve essere falsa. Mi risulta che tua madre non si è mossa da Roma. Eleuterio. Roma Trastevere, 4 novembre 1966. Caro Eleuterio, soriano, intendo dire gatto, ma di tipo piuttosto comune, uno di quei gatti che quando passano la gente guarda e dice: "Toh, guarda un gatto". Madre da ieri è chiusa in salotto con il vecchio signor Toto, ex carrettiere a vino. Non mi spiego perché. Ho capito perché, Eleuterio. La porta del salotto era semichiusa. Mia madre si sta facendo ripassare tutto il pittoresco vocabolario di lite nel caso tu dovessi telefonare. Il sole sta tramontando, Eleuterio. E io penso che, contrariamente a Nilla Pizzi, lui tramonta senza cantare. Mi scuso per la tazzina di caffè bollente. Non avevo nessuna intenzione di versartela nella canottiera. Ma ero in posizione sfavorevole per versartela in testa. Sempre tua. Roma Parioli, 5 novembre 1966. Cara sempre mia, comincio a sentirmi solo. I tuoi discorsi di bambina ritardata che abbia preso un sonnifero mi mancano. E anche i miei dialoghi con il pappagallo Giovanni mi stancano, perché hanno sempre un fondo filosofico rispetto a quelli che mi fai fare tu. Torna. Anche perché qualcuno ha messo in cucina uno strano tappeto colorato. E non credo che i tappeti stiano bene in cucina. Abbiamo litigato noi due. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha scoperto che il tappeto in cucina non era un tappeto. Si trattava in effetti di bucce di mele, di pere e di banane. Però, viste così, sembravano proprio un tappeto orientale. Eleuterio. Roma Parioli, 5 novembre 1966. Caro Eleuterio, micione, eccomi, che vuol dire che quando mi dici torna, io torno. Se non tornassi non potrei dire eccomi, invece io torno e lo dico. Tra poco rientrerai e io ti verrò incontro con le pantofole. A proposito, le pantofole, la prossima volta non le mettere nella cassetta dei ferri. Distratto come sei, finiresti col girare per casa in tenaglie. Il salice piangente in terrazza è cresciuto ancora. E io penso che il salice in fondo è solo un albero beat che fa il cappellone per protestare contro la quercia Matusa. Sì, Eleuterio, abbiamo bisticciato. E mi ricordo perfettamente anche il perché. La sveglia aveva appena finito di suonare. Uffa. Già le 7. Dicevo che sono già le 7. Soltanto? Allora possiamo dormire ancora un po'. Tu? Io no. Io devo andare a lavorare. Che razza di orari, Eleuterio? Tutti quelli che lavorano si alzano presto. Non è vero. Il signore di fronte a noi va a lavorare la sera alle 8. Ma che c'entra? Quello fa la guardia notturna. Dammi un caffè. Vado. Vai in ufficio anche oggi? No, vado alla prima dell'opera. Ah, alla prima dell'opera. Ma non è presto, caro? Ma dove vuoi che vada un poveraccio che si alza controvoglia alle 7 del mattino? Il caffè? Vado. Che cosa vuoi mangiare oggi a colazione? No, non puoi. Sono 15 anni che tutte le mattine alle 7 mi domandi che cosa voglio mangiare per colazione. Alle 7, quando l'uomo è ancora con la testa piena di sogni e la bocca piena di nicotina. Ma non gli si può rivolgere questa domanda, è da criminali. Criminali? E una povera donna poi deve star lì a scervellarsi se fare pasta, broccoli o spaghetti alla carbonara. Preferisce risotto con i gamberi. I gamberi. Eccoli lì con tutte le loro zampacce che camminano, avanzano, vengono ad invadere i miei pensieri come in un film di fantascienza. Eccoli. Ora si sono sdraiati su un piatto di riso succulento, grasso, pesante. Ma non mi puoi parlare di gamberi alle 7 del mattino, è chiaro? Non capisco perché. Se i gamberi ti piacciono, debbono piacerti a tutte le ore. Forse che io ti piaccio più alle 11 e molto meno alle 15? Tu mi piaci di più alle 2 di notte, quando dormi e sei lì in difesa, con il collo a portata di mano. Il caffè! Vado. Dal momento che vado in cucina, se tu volessi per colazione pasta e ceci, potrei intanto mettere a bagno i ceci. I ceci, con l'aglio, il rosmarino e magari qualche pezzetto di tonno. Oh, aiuto lo stomaco. Oh, lo stomaco. Stai male, Eleuterio? Vuoi un caffè? Sì, se non mi dai un caffè non ce la faccio a tirarmi su. Vado, ma certo che se mi tieni qui a fare il menù, il caffè da solo non arriva, caro. Io ringrazio il cielo di avermi ispirato facendomi riporre la pistola nel cassetto della scrivania. Poteva anche essere qui sul tavolinetto da notte. E allora... Ecco il caffè. Oggi ti farò il baccalà alla casalinga, come me lo ha insegnato mia madre. Allora me lo fai apposta. Io sto qui con il mal di stomaco e tu mi parli di tua madre. Che vuoi dire? Che mi fa lo stesso effetto del baccalà alla casalinga. Povera donna. E poi non è un commestibile. Lo crede, è velenosa. Eleuterio, chiedi scusa a mia madre. È velenosa, ne ho le prove. Dopo l'ultimo bagno che fece a Fiumicino, ci fu l'inquinamento delle acque. Eleuterio, chiedi scusa a mia madre. Sì, cara, sì, solo mi devi spiegare come posso fare a distinguerla da tuo padre, non vorrei sbagliare. Eleuterio, sei un brutto, e io? Tu mi devi dare il caffè e basta. Eccolo il caffè, tieni. Ricordo perfettamente perché abbiamo litigato. Ma quando rientrerai, farò finta di niente. Ciao. Sei rientrata, Eleuterio? No. Vieni, caro, si mangia. Ti ho preparato del baccalà alla casalinga, proprio come me lo ha insegnato mia madre.